sono 30, sono 40, stavolta sono 50. 50 inverni, 50 estati, sospiri al vento rubati. Mi volto indietro, poi guardo davanti. Stato manager, padre, dottore, ho pure trovato l'amore. Ho inseguito la grazia, dove la grazia si annida la vita, sempre una sfida. Da solo in gruppo, triste o contento, combatti per non sprecare il tuo tempo. Ma quello che conta è sentire il gusto. Di sfidare ogni giorno con lo spirito giusto. Sento i prossimi saranno 100. Mi soffia sul viso lo scirocco d'oriente, desiderio di tutto e di niente. Quel vento adesso si ferma ed aspetta, lo respiro senza più fretta. Sogno di notte e di giorno, son desto, l'aurora arriva sempre più presto. E no, non è più facile lasciarsi andare senza guardare. Vivere per vivere, gettare la rete, bere tutto e cercare la sete. Tanto in qualche prezioso momento scordo me stesso, non me ne pento. Ma quello che conta è non fare rumore. Stare in silenzio e ascoltare il fragore. Fatto del male, sì, mi sono perso e devo ammettere che mi ha reso diverso. Ma chi se ne frega, io le cancello, perdonare me stesso. Vada con Dio, oppure a cagare, ma una cosa la voglio. Poi a Daniello non è lo stesso, essere buono non è essere fesso. Ma quello che conta è vedere il colore. La tinta del cielo, la pellice del cuore. Sarà difficile, però io ci tento e guardo verso i prossimi voglia di vagabondare, vedere, capire, toccare, ancora e sempre annusare l'ignoto, quello spazio oltre il filo del vuoto. Quel magico posto dove l'inizio è la fine.